Certo. Il problema non è quella di isolarla, ma di coinvolgerla, coinvolgere una grande potenza come la Cina e come l'India su questa grande questione birmana. Questo è un banco di prova fondamentale. Le Olimpiadi avvengono domani, ma la repressione in Birmania viene oggi. Fermare la repressione, dare ai monaci una solidarietà mondiale e chiedere che anche la Cina e l'India si schierino da questa parte è oggi il compito fondamentale dell'Europa, è nostro.